Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo della Spending Review, già i nostri GR24 vi hanno ricordato come oggi nella relazione annuale del commissario straordinario del governo Joram Gutgeld, presentato alla Camera, presentata la relazione, l'ammontare complessivo della spesa pubblica su cui si è concentrata l'attività di Spending Review è pari a 368 miliardi di euro, la spesa corrente aggredibile al netto di trasferimenti di 327 e oltre il 90% di questa spesa è composta dal costo del personale degli acquisti di beni e servizi. Tra l'altro nel 2013-2016 vi è già stata una riduzione degli organici della pubblica amministrazione al netto della scuola di circa 84.000 unità. Gutgeld ha rivendicato dal 2014 tagli per 30 miliardi, 29,9 miliardi per la precisione, e il ministro Padoan ha detto basta continuare a dire che non si è fatta la spending review. In realtà cercheremo di parlarne con Gutgeld stesso, perché quello che non capiamo è come mai, se viene fatta la spending review e quindi si riduce l'ammontare della spesa pubblica, il debito pubblico continua a aumentare a fronte di investimenti in calo. Questo poi è il quibus. Di questo parleremo. Poi parleremo anche invece della telenovela, lo dico col massimo rispetto possibile perché la situazione è serissima, delle banche venete, perché adesso spunta il gruppo Icrea come tra i possibili acquirenti a prezzo simbolico delle attività facenti capo a Popolare di Vicenza e Veneto Banca. È di oggi la notizia pubblicata da Sole 24 Ore, anche se in pole position resterebbe sempre il gruppo Intesa San Paolo. Il Tesoro, come abbiamo già ricordato, vuole fare in fretta, entro il fine settimana ci si attende delle risposte e ne parleremo, perché lo schema ipotizza una liquidazione ordinata degli asset partendo dallo scorporo dei non performing loans, cioè delle sofferenze bancarie. Anche di questo parleremo. La borsa oggi vede l'indice di Milano cedere un po' più degli altri indici, mi riferisco a un 0,66-0,70% di calo, con alcuni titoli in evidenza tra cui Salvatore Ferragamo più 2,40%, c'è Moncler più 2,20%, Mediaset più 2%. Il tema di oggi sui mercati però riguarda il petrolio, e non è un caso che Eni perda l'1,90%, Tenaris il 3%, Saipem il 2%. Perché? Perché il petrolio, continuando con un calo dei prezzi nonostante le misure dell'OPEC di qualche mese fa, oggi ha toccato i minimi da 7 mesi, è sceso anche sotto i 46 dollari al barile il Brent, e il WTI è sceso a 43,2 dollari, ha perso quasi il 3%. Questo nonostante nell'emisfero occidentale si stia entrando in quella che viene chiamata dagli esperti la driving season, ossia il fatto che la gente va al mare, va in vacanza, va in montagna e tende a usare più la macchina, hanno pesato più rispetto a questa indicazione gli aumenti della produzione che arrivano da Libia e da Nigeria e che vanno ad aumentare complessivamente l'eccesso di offerta sui mercati. Ecco perché perdono quasi il 3% sia il Brent, ossia il greggio di riferimento del Mar del Nord, che il WTI, West Texas Index, che appunto perde il 2,70%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ricordo che il programma è trasmesso anche sul sito e su Facebook. Ecco, qualcuno mi scrive: quale governo non ha saputo chiudere la vicenda delle banche quando si poteva con norme europee? Allora, vado a memoria, perché i bail-in, se non ricordo male, del 2014, dopo la vicenda di Cipro, sicuramente il governo Monti e anche il governo Berlusconi precedente, ma diciamo poi la crisi scoppia nel 2011, governo Berlusconi e governo Monti, perché quello è il periodo in cui l'hanno fatta gli altri paesi, se si riferisce a Germania, Spagna, che però ha fatto richiesta di aiuto, Olanda e Francia. Ma la vulgata lì era: le banche italiane non parlavano inglese, le banche italiane hanno meno problemi. Ma era anche vero che ci fossero meno, che fosse più bassa la componente di derivati, di prodotti tossici. Il problema è che erano molto esposte, in molti casi virtuosamente, in altri invece in maniera fraudolenta, ne abbiamo raccontati, ma erano molto esposte sul sistema di piccole e medie imprese italiane. Quindi quando è andato in crisi quel sistema si sono verificate le sofferenze bancarie. Comunque diciamo che anche lungo il 2010, 2011, 2012 si poteva, ma bisognava, ne abbiamo parlato molte volte, lì bisognava dire che le banche non avevano problemi perché già c'era un paese con uno spread a 550 e molti dubbi sulla tenuta dell'Italia, ci mancava solo mettere dentro le banche. Poi col senno di poi è stato un grosso errore, ma è stato un grosso errore non dimenticarsene anche negli anni dopo. Quindi dico governo Letta, poi si è arrivati tardi nel governo Renzi, molto tardi, a scadere quasi, a pensare a una soluzione alle quattro banche, e quindi Etruria, Chieti, Marche e Ferrara. Giustamente ho detto Index, il WTI e il West Texas Intermediate come petrolio. Comunque andiamo sulle notizie in breve, al di là del petrolio e della spending review. Oggi le notizie riguardano molto l'Italia, ci sono 13 zavorre antiripresa per le piccole e medie imprese italiane identificate oggi dalla Confartigianato. È un periodo di grandi assemblee, ieri abbiamo raccontato quella della Confesercenti, oggi la volta della Confartigianato. 13, dicevo, zavorre antiripresa per le piccole e medie imprese italiane che pongono e confinano l'Italia al 50° posto della classifica mondiale nei paesi che hanno maggiori condizioni per favorevoli all'impresa. Noi siamo 50°. Le piccole e medie imprese corrono, dice Confartigianato, ma l'Italia le frena con 13 zavorre. Tra l'altro fa notare il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti dal palco che è diminuita un po' la tassazione sull'impresa, ma ancora troppo poco. Perché nel 2017 il carico fiscale si è sceso al 43%, ma ci batte solo la Francia con il 47,5%. Subiamo un tax spread, ha detto Merletti, rispetto all'area euro pari a 24 miliardi di euro. Ci sono adempimenti che danno risorse e tempo. Il cuneo fiscale del costo del lavoro, cioè quanto entra in busta paga, quanto costa un lavoratore rispetto a quanto poi guadagni effettivamente, è al 47,8%, sopra quasi di 12 punti percentuali rispetto alla media dei paesi avanzati. La tecnologia, pur essendo molto importante, non è tutto. Lo sviluppo delle nostre imprese, il ritorno alla crescita, hanno bisogno di altri fattori abilitanti. Mi riferisco alle condizioni di contesto per fare impresa, che oggi limitano pesantemente la nostra attività. Gli imprenditori corrono, ma il paese non li segue. L'Italia è ancora al 50° posto nella classifica mondiale per condizioni favorevoli di fare impresa, e la classifica non l'abbiamo stilata noi. La domanda che ci facciamo è però: ma quali sono i problemi che ci relegano al 50° posto nella classifica mondiale? La lista dei problemi e degli ostacoli è lunga, a partire dall'elevata tassazione sull'impresa, che è vero diminuisce, ma è ancora troppo poco. Nel 2017 il carico fiscale arriva al 43%, ci batte solo la Francia al 47,5%, ma probabilmente con altri servizi, altre qualità di servizi per i loro cittadini. In pratica subiamo una tax spread rispetto all'Eurozona pari a 24 miliardi di euro all'anno. E non è solo questione di pressione fiscale insostenibile, ma anche adempimenti che drenano risorse e tempo alle imprese. Il cuneo fiscale poi sul costo del lavoro è pari al 47,8%, superiore di quasi 12 punti rispetto alla media dei paesi avanzati. andiamo avanti con la Confartigianato. La pubblica amministrazione è al palo, dice sempre Merletti. Le nostre imprese volano sui mercati internazionali, fanno innovazione, ma nel frattempo i nostri servizi pubblici rimangono al palo. I comuni italiani gestiscono online soltanto il 3% dei servizi per cittadini e imprenditori, e proprio nei comuni meno efficienti le piccole e medie imprese subiscono la maggiore tassazione. Fra IMU, TASI e addizionali IRPEF si sfiorano i 4.400 euro all'anno per imprese. Le nostre imprese volano sui mercati internazionali e fanno innovazione, ma nel frattempo i nostri servizi pubblici rimangono al palo. I comuni italiani infatti gestiscono online soltanto il 3% dei servizi per cittadini e imprenditori. Ed è proprio nei comuni meno efficienti le piccole imprese subiscono maggiore tassazione. IMU e TASI addizionale IRPEF sfiorano i 4.400 euro per impresa all'anno. E poi un tema che entra anche nel dibattito politico, il famoso reddito di cittadinanza, quello proposto dal Movimento 5 Stelle, che dice sostanzialmente che costerà 24 miliardi. Altri obiettano dal PD che la cifra è ben più alta, se arriva a 60 miliardi. Ma al di là di questo, la Confartigianato dice di essere favorevole al lavoro di cittadinanza, non al reddito di cittadinanza, perché vale ancora la convinzione che non si può guadagnare senza lavorare. Sentiamo Merletti. Per noi il lavoro porta benessere, ma porta soprattutto dignità e inclusione sociale. Per questo siamo favorevoli del lavoro di cittadinanza, non del reddito di cittadinanza. Per noi vale ancora la convinzione che non si può guadagnare senza lavorare. È vero, per noi le imprese non sono astratti strumento per fare soldi, sono luoghi dove le persone hanno volti e anime, dove si svolge la loro e la nostra vita. Con il Papa diciamo convinti che quando l'economia perde i contatti con i volti e le persone, delle persone concrete diventa un'economia senza volto e quindi un'economia spietata, un'economia speculativa e spersonalizzata. Sappiamo però, e non solo noi, che gli obiettivi di sviluppo che il piano del ministro Calenda persegue saranno raggiunti solo a condizione che mantenga e si allarghi l'inclusività a tutte le imprese e quindi alle micro e piccole imprese e alle imprese artigiane. Non è solo un'ovvia questione di numeri, le nostre imprese sono cuore e cervello di quel Made in Italy culturalmente denso che deve essere traghettato nell'economia digitale e senza la quale saremmo un paese come gli altri, ma più debole degli altri. E su questo è intervenuto anche il ministro Calenda. Il reddito di cittadinanza è un'aberrazione, dice Calenda, anche dal punto di vista dei valori. Nell'economia di mercato non esiste un altro modo per creare lavoro se non quello di far assumere le imprese, e chi pensa di poterlo fare con delle scorciatoie. E non è solo il reddito di cittadinanza che è un'aberrazione dal punto di vista di valori, non solo dal punto di vista economico, perché io lo vedo attaccato spesso sui giornali dal punto di vista economico, ma il problema non è se c'ha le coperture o non c'ha le coperture, che sicuramente non ha. Il problema è che non si può passare il principio per il quale il reddito è la cosa fondamentale, il lavoro lo è. Ed è molto più facile dare un reddito che dare lavoro. Anzi, la vogliamo dire tutta? Ma nella storia italiana, negli anni 80 e 90, con l'esplosione del debito pubblico, ma quante volte si è provato a inventarsi un lavoro che non c'era e poi ne abbiamo pagati il conto e lo paghiamo ancora oggi quando la tassazione sulle imprese che lavorano veramente è così alta? Da dove viene, secondo voi? È una storia nuova questa del reddito di cittadinanza? Non la è, non lo è. La spesa pubblica degli anni 80-90 era esattamente lo stesso criterio, è una cosa che si chiama assistenzialismo. E che ha determinato un carico sulle imprese e sulle persone che pagano le tasse, che è quello che si diceva prima. Allora non è questa la strada. La strada è quella di investire sulla competitività delle imprese, eliminando e diminuendo la pressione fiscale. E poi è tornato sui temi toccati già ieri in assemblea Confesercenti il ministro Calenda. Facile dire giù l'IRPEF o ci sono molti fondi o è solo uno slogan? Io non credo che oggi noi possiamo dire l'unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura. Io penso che oggi noi dobbiamo realizzare che questa paura è profondamente radicata in cose vere, perché viviamo una transizione che non è mai stata così profonda e allo stesso tempo così violenta e così veloce. E come si può rispondere a questo? Io penso che si possa rispondere, se noi siamo in grado di fare progetti lunghi e complessi. Un esempio, tagliare l'IRPEF o fare Industria 4.0. È molto diverso, perché uno lavora sulle imprese che innovano, crescono, prendono produttività e poi assumono. L'altro si illude di dare una piccola fiammata ai consumi che non arriva, perché per poterlo fare devi mettere in ballo una quantità di risorse enormi che tu non hai. E certo, politicamente raggiungi una platea più ampia, certo, politicamente è più facile, più semplice dire questo. Ma poi siamo sicuri che la gente tutta questa semplicità o questo semplicismo o questo ottimismo lo voglia veramente sentire, o invece non sia pronta ad affrontare il realismo e anche la complessità come risposta a problemi complessi? Io penso che la gente sia molto pronta a fare questo. Penso che ci sia una sottovalutazione degli italiani nell'idea che gli devi dare uno slogan o dargli un contentino per cercare di portarteli a casa. Non credo che sia più questa la risposta, comunque non credo che lo sia per chi lavora nel mondo reale come voi. Dunque i problemi sono complessi e verranno affrontati con realismo. E poi un passaggio che riguarda i corpi intermedi. Vedo alcune dichiarazioni al 349, messaggi al 349-238-6666, alcune critiche, altre favorevoli al Calenda. Questo è il ministro, come sempre ascoltiamo il ministro, non può pensare come vuole sul reddito di cittadinanza. Il rischio forte c'è che sia un elemento che... Altra cosa è dare delle forme di integrazione anche più consistenti di quelle che ha deciso il governo su chi ha si è avvicinato alle soglie di povertà, povertà relativa, ma dare un reddito comunque solo perché sei cittadino, a mio avviso può avere degli effetti distorsivi enormi anche sul mercato del lavoro. E poi uno può obiettare che eticamente un reddito, un conto è un'integrazione a un guadagno non sufficiente, ma un reddito a prescindere dal fatto che tu lavori o no. Dicevo, i corpi intermedi, cioè le associazioni di categoria, molto criticate all'inizio del suo mandato, soprattutto dall'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Calenda invece dice no, non capisco come si possa governare un paese senza la capacità di avere una rappresentazione dei vari settori da parte delle varie associazioni di categoria. I corpi intermedi vanno affrontati con i corpi intermedi. Perché? Ma perché siamo un paese che è talmente articolato, non solo territorialmente, ma anche settorialmente, che non ci arrivi, il governo non ci può arrivare, né da qui né ancora meno con gli enti locali, ma lo deve fare appoggiandosi ai corpi intermedi. Però è una sfida anche per i corpi intermedi, perché se i Digital Innovation Hub che facciamo insieme e se l'accompagnamento alle piccole imprese per capire come poter usare Industria 4.0 fallisce, questa volta falliamo insieme. Allora, il lavoro da fare è un lavoro complicato e lungo, ma è un lavoro che si può fare solo riconnettendo e non fratturando. Queste alcune dichiarazioni. Poi adesso passiamo, dopo il meteo e la pubblicità, direttamente alla spending review, perché l'altra cosa importante della giornata è stata proprio la relazione del commissario alla spending review Yoram Gutgeld. 349-238-6666 per sms whatsapp. Poi ascolteremo anche altre dichiarazioni, ma vorrei passare subito dunque non è così Barisoni, Bugiardi, lei Calenda, non è assistenzialismo, è quello di inclusione che è assistenzialismo. Guardi, io non stavo parlando della proposta dei 5 Stelle, che aspetto di vedere nella sua articolazione e anche sulle coperture. Sto dicendo che un conto è dare un sostegno, come avviene in molti paesi, nel momento in cui tu cerchi lavoro e hai una fase di transizione perché l'hai perso il lavoro, dimostrando che ti stai riqualificando, che stai e accetti i lavori che ti vengono offerti. Altra cosa è dire tu avrai comunque un reddito di cittadinanza, è una cosa un po' diversa. Detto questo, non mi riferivo ai 5 Stelle, mi riferivo al principio del reddito di cittadinanza a prescindere dal lavoro. Comunque, meteo, pubblicità e poi vediamo di capire come sta andando la spending review e soprattutto perché se è in atto continuiamo ad avere un debito che aumenta e investimenti in calo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Dottor J e Mr. I. Trasforma la tua azienda con J. Galileo e Power 8. jgalileo.com. Focus Economia. Permettetemi di cominciare con una notazione molto personale. Io mi auguro fortemente che dopo questa presentazione di stamattina si leggerà un po' meno sulla stampa che in Italia la spending review o non si è mai fatta o si è fatta male. Qualcuno sicuramente continuerà a dirlo, però qualcun altro forse ascoltando quello che di buono è stato fatto sotto la guida di Gutkel ci penserà due volte. I risultati, qui Joram è stato molto esauriente, non ritorno sui numeri che sono considerevoli, sono numeri che in termini di aggregati di finanza pubblica sono importanti, creano, hanno creato, continueranno a creare spazio fiscale importante, naturalmente poi sarà il dovere dei policy maker usare questo spazio in modo efficiente ed efficace, ma paradossalmente la riduzione della spesa, ed è soprattutto la spesa corrente come abbiamo appena visto che è quella più aggredibile in più di un senso del termine, ma che è stata aggredita e migliorata nella sua qualità. Più di questo, oltre a questo, c'è la questione dei meccanismi, che sono essenziali per poter sostanziare l'affermazione da cui sono partito, e cioè che la spending review è un pezzo della riforma strutturale della pubblica amministrazione. Sono i meccanismi che vanno cambiati, con i cambiamenti dei meccanismi si ottengono risultati e numeri migliori. Così il ministro Padoan nel commentare la relazione annuale della spending review fatta dal commissario alla spending review Joram Gutkel, che è nostro ospite. Buonasera Gutkel. Buonasera. Dunque, vediamo le cifre che lei ha presentato. Meno 3,8% l'organico del, per effetto del blocco del turnover della pubblica amministrazione al netto della scuola, pari a 84.000 dipendenti in meno, con un punto del 7% nei soli ministeri. La Consip, di grande attualità per via della vicenda che coinvolge il direttore Marroni e il padre di Renzi e il dibattito politico, però lei della Consip ha parlato rivendicando il fatto che la Consip è la, diciamo, centrale degli acquisti della pubblica amministrazione, ha permesso di risparmiare dal 2014 al 2016 3,5 miliardi, e ha detto anche l'Italia è al top nei paesi OCSE per il contenimento della spesa. Come si arriva invece, Gutkel, alla cifra di 30 miliardi di tagli dal 2014 ad oggi? No, allora intanto il taglio riguarda i capitoli di bilancio del 2017, quindi non è dal 14 al 17. Oggi, quest'anno, la somma degli interventi fatti negli anni precedenti, 14, 15, 16 e l'ultimo anno, per quest'anno valgono 30 miliardi. Sono tutti, come ho fatto vedere, interventi contenuti nei vari leggi di bilancio, leggi di stabilità, riguardano tutti gli aspetti della, fondamentalmente della spesa corrente della pubblica amministrazione, quindi come ho spiegato abbiamo aggredito circa una massa di 330 miliardi di costo, e su questo è stato fatto un lavoro che rispetto a quello fatto da altri paesi è, possiamo dirlo, è più incisivo. Su questo dunque vedo qualcuno mi dice ma insomma state facendo parlare l'esponente del PD. No, guarda, non è l'esponente del PD, Calenda intanto non è esponente del PD. Il problema è che in questo programma, quando parliamo di economia nazionale, facciamo sentire i ministri del governo in carica. Quando c'erano Tremonti e il governo era Berlusconi, facciamo sentire i ministri del governo Berlusconi. Quando il governo era Monti, ministro del governo Monti. Quando il governo era Letta, ministro del governo Letta. E con il governo Renzi, ministro del governo Renzi. E con il governo Gentiloni, ministro del governo Gentiloni. Nel caso specifico, onestamente, Calenda non è neanche del PD, è considerato un ministro tecnico, cioè non viene da nessun partito, ma comunque... E questo vale anche per Yoram Gutgel, che è l'attuale commissario alla Spending Review. Senta Gutgel, c'è una cosa però che io posso capire anche Padoan, che dica basta dire che non facciamo la spending, però forse il motivo per cui non ci sembra che la spending venga fatta è perché continuiamo a vedere un debito pubblico in aumento e mentre il paese ha avuto investimenti in calo negli anni scorsi, quindi non è colpa degli investimenti. Allora lì il sospetto è che il debito non si riesca ad aggredire perché tutto sommato la macchina pubblica costa ancora troppo. Allora, la macchina pubblica italiana, così mettiamo i numeri in modo chiaro, e peraltro nella relazione, quindi sono disponibili a tutti. Di nuovo, se parliamo della macchina pubblica italiana, quello che fornisce i servizi, la sanità, la scuola, i comuni, la difesa, la sicurezza e così via, questa macchina in termini di percentuale sul PIL costa meno che la gran parte dei paesi europei. Quindi questo è un dato di fatto, poi si può discutere della qualità, ma abbiamo una sanità considerata tra i migliori del mondo, abbiamo forze di sicurezza che finora si sono dimostrate capaci a fare cose che altri paesi forse non sono stati capaci a fare e così via. Quindi abbiamo una macchina pubblica tutto sommato efficiente e di buona qualità. Il problema del debito pubblico è legato alla crescita, e questo è il vero problema. Noi abbiamo avuto negli ultimi anni una crescita reale bassa e inflazione bassissima, è la somma di questi due elementi che comporta diciamo il fatto che il debito si è stabilizzato sostanzialmente, ma finora non è sceso. Allora, guardando davanti, e questo è il vero, credo, la vera scommessa per gli anni futuri, se noi riuscissimo a mantenere il controllo della spesa, come siamo stati capaci a fare negli ultimi anni, e far rilanciare la crescita, i numeri già del primo trimestre di quest'anno di crescita reale sono buoni, io mi auguro che continuino. A questo punto, con la ripresa dell'inflazione, se riusciamo ad raggiungere dei valori di crescita nominale del PIL, la somma delle due del reale, più inflazione, di almeno 3%, il debito inizia a scendere in modo stabile. Sì, io noto che cresce il debito anche in termini assoluti, non solo in percentuale sul PIL. No, ma vabbè, ma il debito. Allora, il debito in modo assoluto cresce sempre, ma non è tanto questo, è il debito verso cresce sempre. Insomma, comunque il rapporto tra debito e PIL. Dopo il traffico, io vorrei capire invece cosa ne pensa della Consip, nel senso che, al di là delle vicende giudiziarie, noi abbiamo sempre detto, attenzione, bisogna ridurre il numero delle stazioni appaltanti, che erano oltre 30.000. È stato ridotto a 35, se mi corregga se sbaglio, come numero di stazioni. Sì, diciamo, abbiamo creato questo gruppo di centrali, una per regione, una per città metropolitana, più la Consip, che diventano un po' il nucleo principale di acquisto. Chiaramente quest'anno diciamo si è occupato di 16 miliardi di acquisto, l'anno prossimo sarà di più e mano a mano nel tempo lo aumentiamo. Sì, visto che venerdì, non so se lei lo sa, ma abbiamo una classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione, ce n'è molto da fare ancora, perché vediamo costi assurdi nella sanità, ma non solo. Però dopo il traffico vorrei che mi rispondesse a questa domanda: qual è il giusto equilibrio tra avere 30.000 stazioni appaltanti, quindi vuol dire il far west, la giungla, e l'abbiamo visto su quanto costava una stampante, una siringa, un rotolo di carta igienica, e invece averne così poche che tagliano fuori tutti quelli che non sono grandi soggetti, perché il rischio opposto è dire vabbè, ma se tu fai solo bandi diciamo per decine di milioni, il piccolo non può partecipare. La risposta cortesemente dopo il traffico 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Focus Economia. Oh, Allora, le convenzioni, le 34 convenzioni che erano partite come benchmark, come prezzi benchmark della Consip riguardavano l'acquisto di autovetture di pubblica sicurezza, l'energia elettrica, le fotocopiatrici, i PC portatili, i tablet, gli aghi, le siringhe. Perché lo dico? Perché in realtà, faccio tre esempi, Goodkeld, stent coronarici, in Puglia si possono comprare come sanità nell'83% dei casi pagati dagli 840 ai 1000 euro, ma c'è anche un 15% dei casi che è riuscito a comprarli a 100 o a 650 euro. In Molise gli stessi stent coronarici vengono pagati più di 1000 euro in 7 casi su 10 e in 3 casi su 10 invece tra gli 800 e gli 840 euro. In Basilicata un terzo costa più di 1000 euro. Invece nel centro-nord gli stessi stent coronarici costano in media 450-500 euro. Addirittura in Veneto si spendono 390 e 370 euro. E queste si chiamano mazzette, tangenti, non è che si chiami in altro modo. Il pacemaker, lo stesso tipo, in Calabria nell'8 casi su 10 viene pagato 3.500-4.000 euro, in Umbria 3.000-3.500 euro, in Piemonte si scende a 1.750 euro-2.000 euro, in Liguria, è vero che sono risparmiosi i liguri, ma insomma lo pagano tra i 700 e i 1.000 euro, cioè un terzo di quanto non costi in Calabria, che non mi sembra abbia una sanità così efficiente. E potrei andare avanti. Allora, non è ancora un po' poco quello che riesce a fare la Consip e come si fa a non escludere i piccoli e medi imprenditori virtuosi? Ok, intanto tutte le buone domande. Intanto importante spiegare che il sistema non è solo Consip, Consip è le centrali regionali, anzi nella sanità i principali attori sono quelli regionali, le centrali di acquisto regionali. Allora, noi siamo il fenomeno che lei ha raccontato, no? Che vengono proprio dal lavoro che abbiamo fatto, cioè noi abbiamo fatto rilevazione di tutti i contratti, di tutti i prezzi l'anno scorso per poter partire in modo che si capisca quale è il potenziale. Allora, quello che si vede in realtà, più che il fenomeno del sud e nord, che c'è anche per un certo verso, all'interno dello stesso regione, se lei guarda la tavola che abbiamo fatto vedere sugli stent, in regione Piemonte si prende il 18% a 300-400 euro e l'11% a 1000 euro. Questo da che cosa deriva? Deriva dal fatto che fino all'anno scorso gran parte degli acquisti è stato fatto dai singoli ospedali, quindi con prima di tutto volumi di acquisti bassi, livello di professionalità di chi comprava molto variabile. E quindi a prescindere dal anche tema, maggior rischio di corruzione, dai, perché adesso non è che posso pensare. Ma c'è però, sì, c'è anche, per carità, c'è anche però, e in generale c'è molto questione proprio di abitudini, di poca professionalità e così via. Allora, il meccanismo che di fatto per le categorie dove questo si può fare passa dai singoli ospedali alle centrali regionali porta i risparmi. Cioè, noi stiamo avendo adesso, sono stati lanciati l'anno scorso 25 miliardi di bandi, quelli chiusi portano un risparmio medio del 23%. Alla domanda, che è una buona domanda, ma non c'è il rischio di escludere i piccoli, eccetera. Qua bisogna ragionare prodotto per prodotto, servizio per servizio. Faccio l'esempio. Negli stent, il 80-90% della produzione mondiale degli stent è fatta da cinque grandi aziende multinazionali. Lì non c'è la questione dei piccoli, no, sono cinque, no. Poi, mentre invece per la pulizia, dove non c'è la ricerca e sviluppo, non ci sono molto meno economia di scala, evidentemente ha più senso avere gare più piccole, più frazionate. Su questo devo dire nel passato ci sono stati dei problemi, perché alcune delle gare erano troppo grandi. Quindi noi cosa stiamo facendo? Lo stiamo facendo assieme a questo tavolo di soggetti aggregatori, dove ci sono dentro tutti Consip e le altre centrali, e con ANAC stiamo lavorando proprio per definire le linee guide, per capire prodotto per prodotto, servizio per servizio, qual è il modo più logico, più giusto impostarlo, sia in termini di dimensione, sia in, sia in termini di durata di gara e tanti altri aspetti. Quindi si sta facendo un lavoro molto professionale, coinvolgendo appunto regioni e Consip, e i risultati si vedono. Senta Gutke, in 30 secondi, perché poi devo dare la linea GR, ma lei ha utilizzato il lavoro fatto da Cottarelli, me lo chiedono molti ascoltatori, quello fatto dal Presidente Commissario. Assolutamente, anche perché Cottarelli, quando, che io ringrazio per il lavoro fatto, che ringraziato oggi, diciamo è stato, abbiamo lavorato assieme, perché già allora si lavorava assieme, e assolutamente diciamo ha fatto la prima fase degli studi che noi abbiamo utilizzato, naturalmente non tutto, alcune delle cose che sono stati suggeriti poi alla fine si era visto che non si potevano fare, abbiamo aggiunto molte altre, che è normale. Quando tagliate le 3.000 municipalizzate inutili? Allora, però posso dirle una cosa? No, allora facciamo, questo è importante, però resti con noi, resti con noi, perché ho il GR24, no, perché sulle Cottarelli individuò 3.000 municipalizzate proprio inutili, in cui ne parliamo, e altre 3.000 insomma che potevano essere tranquillamente chiuse su 8.000 partecipate dai comuni. Vorrei sapere, siccome il tema è importantissimo, anche perché lì sappiamo che è più che altro un poltronificio per la politica, per i trombati della politica in quei casi, quelle 3.000, vorrei sapere come ci si sta muovendo. Dopo il GR24 con noi Yoram Gutged, poi parleremo anche della borsa. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Apparteniamo a una comunità di viaggiatori in cerca di luoghi sconosciuti, tutti da scoprire. Un'Italia fatta di borghi antichi, di bellezze naturali e meraviglie architettoniche. Viaggia con noi per ascoltarne la storia e respirarne l'atmosfera. Radio 24 e Touring Club Italiano ti portano in alcuni tra i luoghi più belli e suggestivi del nostro paese. Ogni settimana in onda nel Sabato del Villaggio. Il sabato dalle 15 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mister I. Trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei concludere l'intervista col commissario alla Spending Review Yoram Gutke, che oggi ha presentato di fronte al Ministro dell'Economia, al Presidente del Consiglio Gentiloni, la relazione annuale. E allora, Gutke, mancava una cosa, fermo restando che abbiamo analizzato gli altri aspetti. Una delle cose che più colpirono dell'analisi del suo predecessore Cottarelli fu la denuncia di 3.000 municipalizzate, come le chiamo io, inutili, partecipate diciamo dai comuni, da cui si poteva risparmiare, si potevano risparmiare anche, si arrivava a economie fino a 2-3 miliardi, e 3.000 delle quali diciamo non avevano ragione d'essere. Poi ce ne sono quelle che hanno più consiglieri che dipendenti, più membri del CDA che dipendenti. Che cosa volete fare sulle municipalizzate? Perché sappiamo che in periodo di elezioni poi nessuno le tocca. Allora, bisogna mettere un po' di ordine. Sulle partecipate ci sono questioni diverse. C'è la questione delle piccole, a volte fantomatiche, partecipate, che sono, come ha detto lei prima, a volte dei poltronifici. È lì che noi adesso faremo un decreto per ridurre drasticamente questa popolazione di società. Il risparmio per la finanza pubblica sarà più o meno zero, sta pochi lire, alcune di queste società per liquidare costano, quindi alla fine lo si fa solo per motivi, o soprattutto per motivi estetici, no? Perché dà fastidio che ci sono queste appunto società che a volte non hanno altro scopo che non... Beh, estetici, anche posto. Etici, cioè non è giusto che ci sia una società appunto, del pubblico... Appunto, sì. Però dico che... Purché sia chiaro che da lì non arriveranno tantissimi soldi. Poi c'è una seconda questione, che sono le partecipate in perdita, che però è una questione un po' più complessa. Cioè queste partecipate, prima di tutto parliamo soprattutto di servizi pubblici locali che vengono pagate dai diciamo sostanzialmente dalle tariffe, o dai biglietti che pagano i cittadini. Quindi il problema della, della perdita quando c'è di queste aziende non è tanto problema per la finanza pubblica, è un problema di qualità e costo dei servizi pubblici. Questo è un tema sì importante, e la soluzione non è chiudere aziende, la soluzione è mettere i servizi pubblici locali a gara, serve più concorrenza su questo. Qualcosa è stato fatto, ma se posso, secondo me bisogna fare di più. Ecco, questa è una questione, è una questione, è la vera questione delle, che riguarda le partecipate, che sono i servizi pubblici locali. Però lo dico, non è, è importante per tema di qualità e costo dei servizi, non per spazio di finanza pubblica. Ho capito, devo dire che c'è anche un altro tema oltre a quello etico, e cioè che è anche sbagliato. Un conto sono i servizi essenziali che il comune, la provincia o la regione eroga. Altra cosa è andare a fare concorrenza diretta al, al mondo del privato. Cioè, voglio dire, se tu, come un conto è garantire, tra l'altro, a parte che i servizi essenziali li puoi garantire anche, lo dico a chi mi scrive, con le tariffe. Esiste il price cap, per cui lo Stato dice tu lo puoi prendere in gestione, ma la, la tariffa te la metto io. Per cui in realtà, se parliamo di servizi come acqua, gas e quant'altro, il problema è capire anche quelle inutile, che sono inutile, se non vadano a fare concorrenza al settore privato inutilmente in questo caso. Comunque sì, c'è anche quello, però il problema principale sono questi. Comunque, allora, stiamo lavorando. Bene, aspettiamo il decreto. Quando arriva il decreto sulle partecipate? Le prossime settimane, c'erano già diverse versioni, io mi auguro prima dell'estate. Allora, grazie anche al commissario per la spending review, Yoram Gutgeld, e da qui passiamo con un volo un po' pindarico direttamente alla borsa. Che oggi si chiama prezzo del petrolio, sceso ai livelli più bassi da mesi, a $42 il Brent, sì, Brent è sceso fino a $43,2, scusatemi, il WTI, e $46 il Brent, ai minimi da 7 mesi, trascina tutti i titoli energetici, non a caso Tenaris -3,20, Eni -2%, Saipem -1,94%, però il peggior titolo alla fine è Leonardo, -3,32%. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Come mai Leonardo ha preso questa accelerazione negativa nel finale? E poi invece andiamo in controtendenza, dove si è mosso bene tutto il lusso oggi. Moncler +2%, Salvatore Ferragamo +1,80%, Hugues Saint Laurent +1,40%. Sì, Leonardo ha fatto bene, come hai detto tu, soprattutto sul finale. Chissà, fatto male? Un po' di... Sì. Si è fatto male accelerando nel finale, chissà, ci sono dei fondi esteri che probabilmente stanno alleggerendo le posizioni soprattutto sulle borse periferiche, infatti Madrid e Milano hanno fatto nettamente peggio rispetto alle altre borse del vecchio continente, con Parigi invece che ha arginato i danni allo 0,32%, e anche Francoforte comunque ha perso terreno, ma allo 0,58%, circa la metà di Milano e di Madrid. Allora, no, leggo alcuni messaggi di critica a Gutgeld, che dice, insomma, guardi che il decreto prima dell'estate, ricordate a Gutgeld che da domani inizia l'estate. Vabbè, lo faranno domani questo decreto. Immagino si riferisse prima di agosto e luglio, sui decreti sulle partecipate. Vedo molto scetticismo, anch'io posso essere scettico, visto che abbiamo un programma che si occupa di non di spending review, ma di spreco review, e di furto review, e di anche tangenti review. Vediamo se lo faranno. Diciamo, conoscendo questo paese, qualcuno mi fa notare che non ha detto in che anno prima dell'estate, vabbè, adesso non siamo troppo maliziosi. Io dico, se si va sotto elezioni non si fa decreto sulle partecipate, non lo vedrò mai, dai, perché quello muove i posti di potere e quant'altro. Se invece le elezioni rinviano ad aprile, o vanno a scadenza naturale ad aprile, forse vedremo il decreto sulle partecipate, forse. E magari lo fa un governo appunto che non si sta ricandidando come governo Gentiloni. Chiudo la parentesi e torno con Eleonora Micheli. Ti ho interrotto sul lusso, Eleonora. Sì, Luce invece è andato particolarmente bene, Moncler ha fatto più 2%, tra l'altro nel corso della seduta era arrivata a guadagnare il 3%, Ferragamo più 1,77% e fuori dal paniere principale hanno fatto bene anche le Cucinelli salendo di oltre il 4%. Sì. Questo perché si sono chiuse le sfilate milanesi e diciamo la Camera Nazionale della Moda ha fornito indicazioni positive, ossia nei primi tre mesi dell'anno l'abbigliamento maschile è cresciuto, le vendite di abbigliamento maschile sono cresciute del 4-5%, facendo meglio del settore e molto bene anche l'export, soprattutto verso i paesi europei. Poi per quanto riguarda Moncler, diciamo che a risvegliare il titolo sono state anche le indicazioni date da Remo Ruffini a margine della sfilata appunto di Moncler, ossia che il primo semestre, i conti saranno pubblicati a fine luglio, comunque il primo semestre sta andando bene, peraltro va molto bene, ha detto l'Europa, e anche, va bene anche il Giappone e l'azienda va bene tra l'altro anche in America, dove invece sappiamo che altre società del lusso tendono un po' a soffrire a causa della crisi dei department store. Allora, vediamo altri titoli oltre a quelli già citati. Bene, oggi Mediaset si è un po' risvegliata, più 1,70%, perché esatto. Vivendi sembrerebbe cedere. No, non cede più, cioè nel senso che nelle scorse settimane si era supposto che Vivendi potesse cedere le azioni sul mercato. No, cedere nel senso, scusami, ho sbagliato l'espressione, non cedere in quanto vendere, ma cedere in quanto venire a più miti consigli sul congelamento del 20% sul voto. Esatto, Vivendi... Cedere come arrendersi, sì, se vogliamo. Sembra che stia studiando infatti la costituzione di un trust... dove mettere le azioni eccedenti il 9,9% del capitale, ricordiamo che detiene quasi il 30% del capitale, in modo da rispettare le condizioni dell'AGCOM che ha posto come condizio sine qua non che sia scelta la partecipazione o in Mediaset o in Telecom e nel quale caso sia venduta la partecipazione in Mediaset. Comunque nel frattempo la stessa Vivendi, sempre in base a indiscrezioni, avrebbe presentato ricorso al TAR contro anche la posizione dell'AGCOM. La partita è tutta da vedere, tutta da giocare, sicuramente sembra che Vivendi non abbia nessuna intenzione, almeno per il momento, di vendere le azioni Mediaset. In più sale l'attesa per l'assemblea di Mediaset della prossima settimana e c'è chi scommette che verrà proposto un buyback, ricordiamo un acquisto di azioni proprie che dunque potrebbe ulteriormente sostenere i titoli. Allora, ancora un gruppo di titoli, le banche, visto che adesso parliamo delle due venete, e si sono mosse le più grosse Intesa, soprattutto proprio sulle venete. Sì, esatto, il comparto bancario continua a essere debole a Piazza Affari perché ovviamente c'è molta preoccupazione per la soluzione di salvataggio che ancora non è stata trovata, si sta lavorando ma non è stata trovata. Oggi Vita, il presidente di Unicredit, ha detto che la stessa Unicredit potrebbe essere favorevole a una soluzione di sistema che coinvolga tutti gli istituti, non a una soluzione a due, mentre secondo indiscrezioni tra l'altro raccolte proprio dal Sole 24 Ore, Intesa San Paolo potrebbe fare delle offerte al prezzo simbolico di un euro per elevare gli asset, alcuni asset delle due banche venete, e sarebbe in corsa insieme alla stessa ICREA. Certo, la situazione preoccupa e quindi evidentemente gli investitori, soprattutto internazionali, magari decidono di alleggerire i propri portafogli di titoli bancari, per questo hanno fatto male un po' tutte le banche. Allora, Visibile Editore più 16,80%, Sole 24 Ore più 8,50%, Cucinelli, come tu ricordavi, più 4,60%, Fronte Opposto invece Fope meno 7%, TAS meno 7%, Brioschi meno 5,80%, Juventus meno 5,30%. Grazie, Leonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Andiamo dopo il traffico proprio sull'ennesimo aggiornamento sulle banche venete. Focus Economia. Pour me a taste of something good. Dunque, aggiornamento sulle banche venete. Tanto, come diceva Shakespeare, much ado about nothing. Molto rumore, non so se per nulla, perché io spero che qualcosa di concreto vi sia. Allora, ancora si usano i tatticismi. Il commissario, il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, si sveglia, dico sul tema, e dice: è un rischioso un intervento dei privati sulle banche in crisi. Non sono note le condizioni di redditività prospettiche delle banche in crisi. Dà una mano, quindi, diciamo, a cercare di trovare una soluzione sull'ingresso dei privati dentro le banche venete, che chiede l'Europa 1 miliardo se vogliamo far partire i 3 miliardi e 700 milioni messi dallo Stato, da noi, con il decreto salva banche. Invece il presidente di Unicredit, Giuseppe Vita, dice: stiamo ancora cercando una soluzione di sistema, non una soluzione a due, ma una soluzione di sistema. Ha detto no una soluzione a due. Su questo restano ancora in pista Unicredit, Intesa, Mediolanum, Poste, Unipol. Si sta allungando la lista, e la novità di oggi riguarda, come anticipato proprio dal Sole 24 Ore, il gruppo Icrea. E allora ne parliamo con chi ha anticipato la notizia. Marco Ferrando, buonasera. Buonasera a voi. Cos'è Icrea soprattutto, e tra l'altro che diciamo, possibilità in questa così ipotetica classifica di chi è messo in pole position e chi invece è più in seconda, terza fila? Sì, Icrea è una delle società di servizi del mondo del credito cooperativo che, dopo la riforma di un anno e mezzo fa, si è candidata a diventare una delle capogruppo appunto delle BCC, che hanno dovuto scegliere a quale gruppo appartenere proprio per irrobustire un po' il sistema. Una sarà Icrea appunto, l'altra sarà Cassa Centrale Banca Trentina. Proprio in questo ambito, quindi, di nuova stagione anche dal punto di vista industriale della storia di Icrea, si sarebbe fatta avanti per rilevare tutti o più verosimilmente parte degli asset delle due venete. Anche se c'è da dire che i bookmaker la danno sfavorita rispetto a Intesa, che per dimensioni, capacità di assorbimento, diciamo, dei numeri grossi, al di là delle perdite che, insomma, stando perlomeno ai loro desiderata, dovrebbero essere assorbite dallo Stato, comunque le due banche in questione, Veneto e Vicenza, sono grosse, quindi Intesa, che è la prima banca italiana, sicuramente ha più possibilità di digerirli anche dal punto di vista industriale. Allora, lo schema devo rispondere all'ascoltatore, mi dice: con Gutgeld oggi lei mi ha davvero deluso, mi può chiarire anche perché, cosa devo fargli, sparargli, insomma, chiedergli che cosa? Allora, dicevo, andiamo avanti con invece le domande. Mi sembra però che anche lo schema sia cambiato oggi, no? Sì, lo schema è cambiato, nel senso che fino a pochi giorni fa si ragionava sull'ipotesi dell'intervento di sistema, diciamo, su base volontaria, quello che ancora stamattina ha evocato il presidente di Unicredit Vita. E il problema è che il sistema non ha dimostrato quella reattività che sperava probabilmente il governo, e quindi si è reso necessario trovare un'alternativa. Pertanto, al momento, lo schema considerato più probabile, sottolineo al momento perché ormai sono mesi che consumiamo uno schema dopo l'altro, e al momento lo schema più probabile prevederebbe una liquidazione, diciamo, pilotata, guidata, quindi meno traumatica di una classica liquidazione, con lo Stato che ricapitalizza, perlomeno tappa i buchi e rivende a un prezzo simbolico, un euro poco di più, gli asset buoni, a quel punto ripuliti. Ed è in questo ambito appunto che Intesa potrebbe rilevare tutto in parte. Ha una serie di condizioni. Senti Marco, ne abbiamo citato vari gruppi bancari, Unicredit, Intesa, Mediolanum, Poste, Unipol, come per il salvataggio delle venete. Si è vociferato anche dei generali? No, al momento devo dire, dai rumor che percepiamo, non sarebbero della parte. Neanche di banche generali, chiaramente. No, anche perché, diciamo, le due banche che tutte insieme, spezzatino o non, dovrebbero essere messe sul mercato sono due banche retail, commerciali, quindi è più probabile che sia un soggetto bancario ad avere un qualche interesse a rilevarle, oggettivamente. E quindi, diciamo, più che un contributo a perdere, un vero e proprio acquisto. Mi sembra, per concludere, Marco, che un po' il modello lo stia dando, se posso usare il paragone, il Santander con il Banco Popolare, no? Cioè una quota per andare a un acquisto, non solo a un salvataggio, un mantenimento in vita. Sì, allora, sicuramente è, diciamo, uno schema ibrido tra Santander, che perché anche in questo caso sarebbe una banca a farsi carico e non sarebbero lasciate al loro destino le due banche che comunque sane non sono e quindi problemi, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi da te, avrebbero avuto. Un ibrido tra il modello Santander e quello di UBI con le Good Banks, perché di fatto UBI ha rilevato le Good Banks ripatrimonializzate o comunque pulite, in questo caso si profilerebbe anche per bene. Dammi l'ultima risposta, per favore, i tempi, perché noi stiamo andando avanti allo sfinimento. Il fine settimana, lunedì, avremo una soluzione di sistema. Che una volta la soluzione di sistema era il 13 o il 12, adesso non so. Esatto, probabilmente dobbiamo averla, perché in questo caso la scadenza perentoria, per quanto ufficiosa, è fine giugno, posta dall'Europa, se no si arriva alla risoluzione, con rischio bail-in. Quello che si vuole evitare, quindi si deve chiudere ormai veramente a giorni, e quindi effettivamente questa settimana potrebbe essere quella buona, anche se, giusto per chiudere con una nota di ottimismo, le previsioni, diciamo, la situazione climatica di oggi mi sembra leggermente meno buona di ieri. Ecco, ieri forse eravamo un pelino più ottimisti rispetto a oggi. Questo ormai è un barometro, non è il salvataggio delle due banche, è un barometro, un sismografo. Va bene, speriamo invece che si chiuda entro il fine settimana. Grazie anche a Marco Ferrando, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.